vieni a sognar con me. Ciao, come stai? Mi chiamo Teddy Ruxpin. Ma Teddy, non c'è più bisogno di presentazioni, ormai tutti sanno come ti chiami. Credi davvero, Grabby? Ma certo. E poi, a dire il vero, credo che si sappia già molto di te. Davvero? Ma sì, certo, è logico. Chi vuoi che ti conosca meglio di me? Dopotutto siamo amici da tanto tempo, te ne ricordi? È vero, Grabby, è da tanto tempo. Ma scommetto che c'è qualcosa di me che perfino tu non sai, o forse hai dimenticato. Ah no, questo no di sicuro. Ho una memoria di ferro. Non dimentico mai nulla, lo sai? Se è così, va bene. Teddy! Grabby! Dovete venire fuori a vedere che cosa ho fatto alla nave volante! È fantastico! Benissimo, Jimmick. Andiamo a dare un'occhiata. Che cosa hai fatto, Jimmick? Ho inventato la vela da navigazione terrestre. Navigazione terrestre? Sì! È fissata alla cima del pennone! Jimmick, ma quello è il pallone sgonfio! Sì, e questo è il bello! Facendo scendere il pallone dall'estremità del pennone, fungerà da vela e potremo spostarci sul terreno! Davvero, Jimmick? Ma è fantastico! Come ti è venuto in mente? Non saprei dirlo con precisione. Mi è venuto in mente così. Bene, perché non lo proviamo? Va bene. Mi sembra che ci sia abbastanza vento. Saliamo a bordo. D'accordo. Che dobbiamo fare, Jimmick? Basta slegare le funi laterali e far scendere la vela. Agli ordini, Jimmick. Issate le vele. Io tengo il timone. Guardate, ci stiamo muovendo! È proprio vero, ci stiamo muovendo! Ehi, fa attenzione a quella roccia, Jimmick! Sì, ecco! Va bene così? Sai guidare benissimo, Jimmick! Da che parte andiamo? Che ne diresti dei prati di Measley, eh? Buona idea! Jimmick, la vela funziona a meraviglia! Partiamo via così. Sì, sì! Partiamo via così. Si parte! Sospinti dal vento laggiù. Viaggiamo leggeri, dai, vieni anche tu. Scordiamoci dell'OGD. Va bene. Mostriamo il sorriso fin tanto che c'è. Corriamo e cantiamo coi tordi e le gru. Contiamo ogni nube che c'è. Partiamo via così. Partiamo via così. Sospinti dal vento di mare. Saltiamo sui dossi e facciamo le gare. C'è il sole che brilla laggiù. Hai visto i miei occhiali da sole? Il mondo è una nuvola nel cielo blu. C'è l'erba sui prati, fermiamoci un po'. Soffiamo sui fiori così. Il vento d'estate accarezza la pelle, ci vuole portare con sé. Il vento ci attende per portarci via. E allora partiamo così. Partiamo via così. Si vola! Partiamo via così. Fantastico! Sospinti dal vento che va. Vedremo le cose ancora più in là. I fiori son sbocciati già. Più alti del sole laggiù. Che bello! Il mondo è fatato in un giorno così. E vai col vento. Se vai col vento. E vai col vento del mare. Allora tutti ai posti! Seguite quell'aquilone! Bene, eccoci ai prati di Measley. Sentite, perché non ci fermiamo un po', vi va? D'accordo! Ammainate la vela! Ricevuto! Va bene così, Jimmick? Molto bene! Però, che bella erbetta soffice! Ottima per le mie zampe! E che piacere starci sdraiati. Sono d'accordo con te, Grabby. Oggi è davvero una bella giornata. Sì, sì, davvero. Guarda, hai visto quante margheritine ci sono? Con le margheritine i prati splendono. E allora, Grabby, sei sicuro di ricordare tutto di me? Ma certo, mi ricordo proprio tutto. Ho una memoria formidabile. Ma comunque è una memoria eccellente. Guarda un po', c'è Woolly. Ehi, Woolly! Woolly! Salve, ragazzi! Come va? Tutto bene, Woolly. E tu? Come mai, Woolly, sei qui ai prati di Measley? Sì, la giornata era così bella che ho deciso di prendere una coperta, il cestino della merenda e di venire... Hai detto il cestino della merenda? Sì! E allora perché non lo apri, la coperta, e ti daremo una mano a sedertici? Va bene! Mi fa veramente piacere di vederti, Woolly. Ci vieni spesso qui? No! Ogni tanto! Ehi, hai visto? Arrivano i Fob! Buongiorno, ragazzi! Ciao, Teddy! Salve, Woolly! Salute, Grabby! Salve, Jimmick! Come state? È un piacere vedervi! Che fate di bello qui? Ehi, dove state andando? Beh, sai, Grabby, siamo venuti per la... Silenzio! Dicevamo... siamo venuti solo per fare due passi. Sì, insomma, solo per fare una passeggiata. Per dare un'occhiata in giro. Sì, per svagarci un po'. A dire il vero sembrate un po' confusi. Confusi? No, no, no, non siamo confusi. Siamo confusi, Fred. Oh no, certo che no. Solamente non sappiamo con precisione dove metterci. O dove andare. Sì, hai detto bene, Fred. Eh sì, sì, sì. Beh, perché non vi sedete sulla coperta? Guardate, stanno arrivando i Grunge! Ehi, salve! Come va? Ciao, Teddy! Come va, Grabby? Ehi, che si dice, Teddy? Oh, salve! Tutto bene, grazie! E voi? Ce l'abbiamo quasi fatta, Ted! È quasi fatta! Sì, dov'è il dolce? Shhh, silenzio! Oh, scusa! Insomma, siamo venuti a vedere se potevamo fare una partita! Ah, sì, una partita! Ma a quale gioco? Come a quale gioco? Ma a Grunge Ball! Naturalmente, sì! Si batte la palla con questa mazza, sì! Sì, una partita a Grunge Ball, dai! A Grunge Ball, dai! Oh! E che ne direste se facessimo una partita noi, contro voi, eh? Sì, vi andrebbe, ragazzi? Sì, vinciamo noi! D'accordo, fateci vedere come si fa. Forza, Grabby! Prendila, mi raccomando! Dai! Se fai il primo punto, li ubriachiamo! Lo so, sto tentando! Fuori due! Oh no! Va bene, forza, ancora un tiro! Prendila, Grabby, prendila! Benissimo, Grabby! Corri, Teddy! Ormai è fatta! Su, Woolly, tocca a te a fare il battitore. Via, Teddy! Faccio volare la palletta al di là della prateria! Fuori uno! Su, tirala qui! Dove posso prenderla? Fuori due! Non preoccuparti, Woolly, ce la farai! L'hai colpita, Woolly! Corri, Grabby! Segniamo un punto! Bene, Grabby, ce l'hai fatta! Siamo avanti di un giro! Corri, corri, Woolly, corri alla prima base! Teddy, guarda! Ho rotto la mazza! Non fa niente, Woolly! Corri! Oh, mi dispiace di aver rotto la mazza! Su, corri, Woolly! Stanno per prendere la palla! Oh, no! Hanno preso la palla! Corri, Woolly! Scusa, Grunge, proprio non l'ho fatto apposta! Sei eliminato! Forza, Grabby! Abbiamo preso le basi e due dei loro sono stati eliminati. Se riesci ad eliminarne ancora uno, abbiamo vinto! Tenterò, Teddy! Fuori uno! Bene, Grabby! Attenti! Fuori due! Bene, Grabby! Ne manca uno! Ora! Oh no! Adesso tocca correre alla casa base! Guardate! C'è Leota! Vuol prendere la palla al volo! L'ha presa! Leota, che forza! Li abbiamo battuti! Abbiamo vinto! Ehi, ma lei gioca con voi? Certo! Leota gioca sempre con noi! Sì, è la nostra arma segreta! Allora va bene! Avete vinto voi! Ciao a tutti! Ciao, Leota! È stata una presa al volo straordinaria! Veramente, Leota! Siete troppo buoni! Sì! Perciò Leota dovrebbe avere la palla in regalo! E invece penso che dovremmo regalarla a Teddy come ricordo della sua festa di compleanno! Compleanno? Buon compleanno, Teddy! Che sorpresa! Grazie! Grazie a tutti voi! Ma come avete fatto a sapere che era il mio compleanno? Ce l'ho detto Grabby! Sì? È lui che ha organizzato questa festa sorpresa! Sì, insieme a Jimmick! Che cari, grazie! Ma credevo che te ne fossi dimenticato! Teddy, quante volte devo dirti che io non dimentico mai nulla! Oh, grazie! Dov'è la torta? E i gelati? E la roba da mangiare? E i regali? Nel cestino! E nascosti nella nave volante! Andiamo a prenderli! Detto e fatto! Tanti auguri! Sì! Tanti auguri! Sì! Per il tuo compleanno che già l'ha! Tanti auguri! Tanti auguri! Per il tuo compleanno che già l'ha! E quando è il compleanno tuo ci piace star con te, per festeggiare insieme e dire tanti auguri a te! Allora apri i regali, metti in testa un cappellino, di giorno in giorno invecchi ma diventi più carino! Tanti auguri! Su Teddy, canta anche tu! Dai, è il tuo compleanno! Tanti auguri! Tanti auguri! Era il mio compleanno esattamente un anno fa! Ci piace di vedere come invecchi insieme a noi, e mentre festeggiamo gli occhi strabilianti gli occhi tuoi! Adesso pensa a un desiderio che vuoi realizzare, le candeline spente ti potrebbero aiutare! Sì, tanti auguri! Tanti auguri! È il tuo compleanno che già l'ha! Tanti auguri! Tanti auguri! Forse hai voglia di ignorarlo, ma il tuo compleanno è là! E quando un altro anno un altro compleanno avrai, vogliamo che ci siamo pure tutti quanti noi! Grazie! Perciò rimpinzati di torta e giù il gelato dai, perché quest'oggi sia il giorno più bello che hai vissuto mai! Sì, tanti auguri! Tanti auguri! È il tuo compleanno che già l'ha! Tanti auguri! E ci piace dirti